occhi a croce, sopra un palo di 2 metri, poi c'è un altro palo di 2 metri che parte da terra, però quindi fai conto che il radiale dal tetto sono 3 metri, no? Non parlare, manda solo portanze. Aspetta, allora, se faccio 2 prove, questa è la Mantova. Ok, hai guardato la portante, adesso cambio. Questa è l'altra, Robè. Questa è più bassa, Massimiliano. L'altra è quasi 9,15 a portante muta e questa è 9,10 a portante muta. Ma va benissimo, là. È alla grande. Va troppo, troppo bene, di lusso. Ma chi è quella che ti dà di più, la Mantova o l'altra, almeno dalla parte mia? Leggermente di più, la Mantova, là. Questa è la Sirio. Ma stiamo parlando di cose impercettibili, cioè proprio mi devo stare attento guardando lo strumento, proprio 2.0,2, diciamo, uno è 9,10 spaccato e l'altro sarà 9,13, dai, quasi 9,15. Ciao Massimiliano. Ehi, ciao Davi. Allora qua tu mi arrivi con la Mantova Santiago 8 con picchi 9,20. Invece con l'altra antenna è appena appena di meno, con gli stessi picchi più o meno. Se volete non essere pignoli, io differenza, perdonatemi, ne noto proprio quasi zero, Massimiliano, quasi zero, ok? Quasi zero. Vediamo Giulio cosa dice in vicinanza. Sì, io noto appena di più la Mantova, da 9,10 della Stellar a 9,12 della Mantova, però non c'è niente da dire, né per una né per l'altra, ottimamente bene tutti e due, veramente bene, va bene che siamo vicini, che poi non è tanto vicino, perché sia la casa tua, la casa mia, ci vogliono 4 km più o meno mio, Massimiliano, sicché non è poi così tanto vicino come noi pensiamo, Massimiliano. Sì. Ti ho mandato anche delle foto, va. Adesso le giro anche a Roberto per fargli vedere le mie condizioni. Ma stamattina ho fatto un video, oh giù, l'ho piazzata così senza vulcanizzare, senza nulla. A Giubbuccio ha dentro un altro bar, sì, attaccata all'albero delle luci. C'era Natalino, ho fatto un paio di prove, c'era Natalino, mi ha dato Santiago 9, ma buttata in terra così, perché la volevo prima regolare lo stilo, capito? Stazionarie nuda, si può dire 1, non arriva 1,1, dai. Sì, ma Massimiliano, ma te l'ho detto quando è ieri, ne stavamo parlando, o avanti ieri, adesso non ricordo bene. È un'ottima antenna, ma veramente ottima, ripeto, io ce l'ho avuto per una trentina di anni e fin quando non è caduta a marcia tutti i radiali non l'ho smontata e devo dire che sono andato, anzi ti dirò di più, con quell'antenna ho parlato addirittura in giornata di propagazione con la Florida e non mi pare che la Florida da tirare di dietro, non mi sembra, Massimiliano. Oh, no, ma va bene, è che mi ha dato un po' di fastidio perché ero da solo, no? L'antenna è lunga, devo sollevare, fare, quindi mi ha dato un po' di fastidio, ma già ci sono riuscito. Ok, se mi date 2 minuti mi sistemo un po' qua, così posso attaccare quella radio diretta, no? E questa di nuovo normale, no? Ok? Oh, Massimiliano, una cosa. Dimmi. Allora, quella con più radiali è la Sirio, quella di là era la Mantova 1. Eia. Ma dimmi una cosa, le dimensioni sono molto simili come antenne? Allora, la Sirio l'ho fatta 6 metri e 15, perché ho dovuto accorciare leggermente i radiali perché erano tutti spezzati, ok? Quindi in genere dovrebbe andare intorno a 6 metri e 10, ok? E io l'ho fatta 6 e 15 per recuperare un pochino di massa. Come altezza dalla base, che poi si misura anche il bicchiere, attenzione, non solo il tubo, anche il bicchiere l'ho fatta 6 e 15, giusti. Stazionaria non ce n'è in nessun canale. Uno, ti ripeto, il rapporto 1 e la Mantova 7 metri, e vabbè, un metro in più, no? Però è anche un po' più robusta la Mantova. Ah, guarda Massimiliano, visto, ma tu le devi tenere tutte e due le antenne? Cosa? Le tieni tutte e due insieme? Sì, perché? Ah, perché se si studia un accoppiatore, tu le puoi accoppiare le antenne, uscire con due antenne, e io sono convinto che avrai un rendimento maggiore. E cosa me ne affrutti? No, no, non mi interessa, vabbè, l'ho fatta apposta così, capito? Sì, ma solo a livello di prove, diciamo, non è una cosa definitiva. È una cosa che adesso è in fase sperimentale, poi decido cosa fare. Ah, ho capito, diciamo sono quasi simili, ma una cosa impercettibile, cioè me ne accorgo col K, la differenza col baracchini non te ne accorgerai mai di una cosa del genere, proprio ho dovuto memorizzare quando ha messo portante fissa, con portante modulata non te ne accorgi, con portante fissa ma un peluzzino poco poco di più, ma stiamo parlando di cose irrilevanti. Ah, ma sono anche, aspetta ti abbasso un po'. Allora io in genere la uso così questa radio, va bene? I picchi sono impressionanti, i picchi positivi che c'ha questa radio, cioè salgono i segnali di una cosa spaventosa. Allora te lo dico Robè, questa radio con un watt tira fuori 40 watt. E infatti si vedono i coso, gli sbalzi di coso, di segnale, di S, di punti S. Comunque non ho salutato a Giulio, ciao Giulio, ben sentito. Riprendete, scusate, riprendetemi il sistema un po' tutto qua, a dopo, ciao. Ok, ciao Roberto, cioè, ciao Massimiliano, a dopo. Sì, ciao Roberto, comunque Massimiliano, per la cronaca sto usando le BB più 4 sul K, non mi hai detto niente, peggio per te, vai, vai, vai, vai, mi sono offeso. E beh, tu Roberto, come mi senti col microfono qua sul K? Questa è la tua voce dal vivo, perfetta, niente da dire, perché l'altro giorno sinceramente, diciamo te l'avevo anche accennato, distorcevi, un po' bruttina, non è la tua, questa è la voce tua pulita, quella che conosco in realtà. E vabbè, quello è il discorso, è sempre da come è regolato il mic gain, dai. Perché basta che un pelino da niente, ma proprio da niente, veramente, che magari può fregarmi, perché come pulisci qua e come sposti, ecco che magari si muove, perché solitamente lo tengo sempre a uno, il mic gain. Però adesso, ripeto, c'è anche la batteria delle ZG, cioè delle BB più 4, non pensavo che magari fischiasse, invece non avete detto niente, sta andando bene e sono contento così. Ho fatto una prolunga, ma non oggi, sia ben chiaro, l'avrò fatta almeno un anno fa, due anni fa, non lo so di preciso, ma è lunga all'incirca, così vedendo la doppio, un metro e mezzo più o meno, perché non ho voluto tagliare il cavo che avevo comprato, ma era stata solo una prova che ho voluto fare e adesso così è, così rimane, fin quando non mi stanco e poi lo taglio e faccio altre espressioni per altri microfoni magari. Va bene, avanti Claudio. Sì, sì, QSL Giulio, guarda, ti dico una cosa, Puntella, conserva l'MC60, mettilo dentro la scatola, usa questo, c'è cioè una modulazione strepitosa, bellissima, non sta fischiando, niente. Io ce l'ho l'MB più 5, non è il mio, ok? Però è connettore che ho fatto a Fabrizio, prende l'alimentazione dalla radio, è perfetto, funziona meglio dell'MC60, è molto forte. Mentre quello che uso io invece ho l'adattatore anche io, da 8 a 4, capito? Quindi io per me, se non me lo dicevi, io rimanevo che tu stavi modulando con 60, una bellissima modulazione, dovevi tenere così, le regolazioni sono quelle sia della radio che del microfono Giulio, e nessuno può dire il contrario. Ok, qua, sì, infatti prima mi sono ascoltato in cuffia con l'altro baracchino che ho qui a fianco e poi bella, vediamo un po'. No, sta stando bella, è la sua voce quella. Mansioni e dopodiché sono entrato in frequenza, tutto lì. Bene, bene, bene, sono contento. solo che il cavo è lunghissimo, mi posso spostare dalla radio di 2 metri, perché il cavo è lunghissimo, perché era un cavo che avevo comprato tempo fa, che ha tantissimi fili, mi sembra ne ha 10, 10, 12 o quanti sono, no? E poi naturalmente ne ho utilizzato 4 per le mie video 4, perché ho fatto questo, perché lo spinotto, si sa, lo sappiamo benissimo, è a 8 punte, no? E allora li ho saldati tutti nello spinotto, però dall'altra parte quelli che vanno nello spinotto del microfono, naturalmente li ho tagliati quelli che non servivano, e ho fatto l'inserimento come faccio sempre, è andata subito al primo impatto, dopo aver rilevato c'era la tensione, sia ben chiaro, e perché sta ascoltando, sia che qualcuno sta in mente di fare il giochetto un pochino bizzarro, bisogna fare attenzione per la corrente, perché ci sono gli 8 volt, lo sapete. Sono uomini che stanno modulando. Sì, Robè. Attenzione Giulio, mi ascolti? Certo che ti ascolto, anche molto bene, avanti. Meno male, pensavo che non stava uscendo. No, esci benissimo, e come, alla grande anche. Dopo 9 più 18 la radio è perfetta, alla grande, veramente, vai. Va bene, dai, saluto a tutti, ciao ciao, che ero in GRX. Ok, ciao Altino, ciao. Come mi senti tu, Tino, in radio? Giulio, bene, sto usando un apparecchio piccolino, un pacchetto di sigarette praticamente, è una radiolina mignon, non è mia, sono in un'altra stazione. Mamma mia, ti stai scendo male. Lo so, esco sempre male io, Claudio. No, tu esci bene con le radio tue, sicuramente, ma questa è cupa e io non ti sento bene. Aspetta, forse c'era qualcosa di... qua sono... non è roba... guarda adesso. Un po' meglio Tino, ma già lo so dove sei, il segnale è quello. Però non è bella la modulazione, dai. Un pacchetto di sigarette, dai, piccolino. Va bene, dai, ciao ciao che sto facendo qualcosa. Ciao, ciao, ciao. Ci sentiamo. Avanti, Roberto. Ma chi era che metteva portante quando parlava Giulio? Non era Tino? Quando parlava Giulio c'era una portante sopra. No, sotto, non sopra. Ne siamo sempre di solito, Roberto. Ti ho detto che qua Giulio e Massimiliano, Attino, non ce n'è segnali, devono essere oltre il 9 più 20 per superare a loro. Quindi siamo sempre alle solite, Roberto, l'ho già spiegato anche stamattina. Non ne ho io segnali che possono coprire a loro, solo i miei vicini possono coprirli, però loro arrivano molto forte qua. Si sentiva qualcosa sotto, ma la modulazione di Giulio era molto comprensibile. Giulio, ma naturalmente hai dato l'alimentazione del coso, sono fra danno, come hai detto tu. Tu lo stai alimentando con la batteria del MB più 4, hai eliminato il cavo che alimenta gli 8 volt del K, così hai fatto. Oh Robert, sì, sempre i soliti secondi per qualcuno che vuole entrare. Sì, prima col tessere ho controllato dove, in quale pin della radio, sto parlando della radio, c'è la tensione, e mi sembra che sia il quarto pin, se ricordo bene, adesso non mi ricordo bene, perché questo è passato già un anno e oltre. E ho stabilito che lì c'è la tensione 8 volt, come deve essere. Allora quello l'ho tenuto in considerazione, per non alimentare ulteriormente il microfono, anche per non creare un cortocircuito, perché sennò potrei danneggiare la radio, no? Allora a quel punto lì ho fatto i collegamenti inserendo i poli spellati dentro lo spinotto del MB più 4, uno per volta, e in un batter d'occhio ho trovato il collegamento, niente di particolare, però la batteria c'è nel microfono, per cui è sempre uguale, non ho cambiato niente, non ho tolto niente, capito Robert? Buongiorno. Avanti. Ciao a tutti, Cristian K2. Chi sei? Cristian K2. Ah ciao Cristian, ben sentito, dai Roberto, da questa parte c'è Giulio, c'è Claudio, Massimiliano e c'era un attimino Tino. Avanti Claudio. Sì, come ho fatto io. bisogna stare attenti appunto al 4, sì. Il 4 è il pin della radio che è alimentato al Toros. Ok, su quell'adattatore che c'ho io, mentre quello di Massimiliano che c'ho io qua, quello è diretto, quello l'ha fatto Fabrizio ed è alimentato appunto a 8 volte dalla radio. Quello è un bellissimo lavoro, alla grande, un bellissimo lavoro quello. Io non l'ho mai fatto perché io di 4 e di 5 sono per i baracchini e quindi lascio così, quindi uso l'adattatore, ma quando faccio delle prove diversamente uso il microfono suo. Ciao Cristian K2, buongiorno, ben ascoltato. Vediamo Massimiliano si è messo tutto a posto. Massimiliano, no, Tino sta lavorando, lasciatelo lavorare, sicuramente stanno facendo qualche prova lì giù nella bassa valle. Avanti Cristian, buongiorno. Ciao, buongiorno, ho acceso adesso, sto guidando e sono in ascolto. Infatti vedevo questo segnale, vai via, ho detto ma cos'è, il vento o in barra mobile? Invece ho visto che sei in barra mobile perché hai un po' di QSB. Ciao Cri, buongiorno, ben ascoltato. Vai Giulio, veramente complimenti, quell'MB più 4 ti posso dire che a differenza dell'MC60 che ha degli acuti molto alti e quindi a volte tende anche a strappare secondo come sollevi la voce, questo ha i medio alti e i medio bassi proprio adeguati alla tua voce, Giulio. È la tua voce bellissima, chiara e pulita, eh? Non tocches e puntella. Ok, d'accordo. Facciamo così. Ciao Cristian, KB, Giulio da questa parte. Sì, oggi ti sento benissimo, a differenza della settimana scorsa che eri un po' lontano e ti ascoltavo lo stesso, però non così bene come oggi. Avanti Cristian. Sì, ancora sono in zona, dai, sono sulla Busilus, direzione Pratamona. Anche la volta scorsa eri in direzione Pratamona, perlomeno eri in quella zona lì, anzi addirittura eri a Pratamona, ti ricordi, c'era anche Eugenio eccetera, e poi lui non ti ascoltava, non, da Porto Torres. Va bene, dai, sono contento che sei entrato in frequenza. Vediamo se è rientrato Massimiliano. Massimiliano sta scaldando la graticola perché sono già le 11.32, dunque sta incominciando a preparare la griglia per l'arrosto. Avanti Roberto. Un'informazione, diciamo, una curiosità. Il Mike Gain del K lo tiene a 1, confermi? A 1 spiccicato, proprio giusto. Anzi, forse anche leggermente di meno, ma tu immaginati lo spessore di una cartina di sigaretta. Sto parlando veramente di quello spessore così, di una cartina di sigaretta. Se io lo muovo può strappare, se lo abbasso potete anche non sentirmi. Mi spiego? Mettere il mic gain del coso, del microfono a quant'è? A metà, a tre quarti? Allora, conto le vignette, 1, 2, 3, 4, 5, il microfono è a 5 di coso, no? L'MB più 4 lo conoscerai sicuramente molto bene, io ho quel modello dove non c'è quella specie di metallo sopra, no? Io ho quello tutto completamente nero, diciamo che è un modello, forse uno dei primi, e ci sono le vignette che segnalano il volume e ci sono le vignette il colore blu. Io sono alla quinta vignetta, ce ne sono altre 5 da poter utilizzare che io non uso mai, lo tengo sempre a quel livello. Tipo mezzogiorno, dai, più o meno a metà. Sì, a metà. Avanti Massimiliano. Sì, dai, ho rimesso un po' tutto in ordine. Ti volevo dire Giulio che senza togliere niente, ma gira ci meglio con questo che con l'altro. Così mi stava confermando Claudio. Infatti mi ha detto tieniti questo che più adatto la tua voce. Capitina. Sì, perché diciamo che l'MB più 4 è un microfono che possiede un po' di toni bassi. Siccome io ho la voce con i toni alti, diciamo che riesce un pochino a recuperare quello che mi manca dalla voce, questo microfono. Se io dovessi utilizzare l'MB più 5, che ha i toni anche, dovrei tenere sempre i toni abbassati, completamente abbassati, perché se basta di muovere i toni la voce diventa sempre più acuta, non so se quanto possa essere bella, è così Massimiliano. Sì, no, ma mi sono accorto, isciugata, aggiungato in tempo per fare indirare gli occhi. Sì, va bene comunque, oh Giulio, va benissimo questo microfono, è proprio bella radio addirittura. Ti ripeto, forse è meglio del 60, sicuramente. Ok, quindi c'è arrivato qua, Roberto, tu, Giulio, poi ancora chi c'è? K2, avanti K2 per il Massimiliano. Ciao Cri, buongiorno e ben ascoltato. Santiago 9, Radio 5, ma sei in zona però, eh. Ok, va. Chi è che mi chiama? Ma chi è? Non ti capisco. Sì che dici come fate, sì, chi è? Che sei, Gianni o Pirru? Gianni Dischetto, Gianni Dischetto, Massimiliano. Però è basso, è quasi incomprensibile. Infatti non riuscivo a capire chi era. Sì, c'ha il mio stesso cognome, già lo so. Anche qua è basso, Santiago 2, cos'hai combinato già? Sì, già anda. Sì, lascialo ancora scaldare, sta iniziando a salire il segnale. Ok, va bene, riprendi qua, fa girare. No? Hai attaccato quella, l'antenna adesso? Ma adesso sono con la manto, ma l'altra ce l'ho diretta sul K. Perfetto, hai fatto un ottimo lavoro Massimilia, veramente bello, pulito, ordinato. E ti ripeto, ribadisco che io noto proprio pochissima differenza. Proprio devi stare molto ma molto attento, perché per me i segnali sono uguali. Poi per Giulio io gliel'ho già detto. Questo è un microfono che abbiamo già sperimentato un po' tutti, sia io, Massimiliano, tu, in tempo fa col 140 Luca, che l'avevo detto io, sono prove che ho già fatto. Questo MB più 4 più 5 con i Kenwood si adatta molto molto bene. Quindi io ti consiglio, ti ripeto, se non me lo dicevi ci sarei caduto tranquillamente, perché non noto differenza, noto solo la tonalità che è molto ma molto più bella rispetto al 60 Giulio, quindi per me puoi usare tranquillamente quello e mettere da parte il 60, perché in linea di massima se sollevi la voce col 60 vai a trappare, con questo hai una tonalità splendida dove si adegua veramente, si addice soprattutto alla tua voce, quindi per me va molto molto bene. Avanti Giulio. Ok, clap, bene. Vabbè, faccio così, lo mettiamo dentro il cassetto, il 60 non se ne parla più. Però ogni tanto lo tiriamo fuori e usiamo anche quello. Sì, probabilmente se magari mi avvicino più che altro, non è che il fatto che sollevo la voce o meno, magari mi avvicino, come mi muovo, no? Se mi avvicino più di quel tanto al 60, allora vado anche a strappare, come mi avete detto tante volte. Mentre invece con questo posso addirittura appoggiare la bocca al microfono e non c'è problema. Infatti sono più o meno a 30 cm dal microfono. Tu immaginati, ce l'ho sul comodino questo microfono e sono seduto sul letto. Tu sai benissimo quanto il comodino può essere distante dal letto, tanto per darti un'idea come lo sto utilizzando. Mentre invece quando uso i 60 mi devo allontanare per tutta la lunghezza del braccio, perché basta che io mi avvicino un attimino, nonostante che a uno sempre il Mikey Gain, allora potrei anche strappare, come è successo alcune volte che poi mi avete corretto e io ho provveduto ad abbassare ancora tutto lì. Bene, vai Roberto. Giuro, no, è inutile, te l'hanno già detto loro, ti confermo, è una radio naturale, quella che c'hai tu dal vivo, sembra una telefonata perfetta, non posso trovare disturbi e difetti, è eccellente, dai, ottima radio, 100%, niente da eccepire, 60 sicuramente magari è un po' più da combattimento, più potente, però la radio tua, se dobbiamo essere in alta fedeltà, nel senso di fedeltà come naturale, questa è la tua. Come ha detto Claudio, a quel punto, se ti va bene il microfono e funziona tutto perfettamente, tieniti questo e quello lo metti da parte, poi se lo devi buttare dimmi dove lo butti e lo recupero io, va bene? Giù. Break. È registrato il break, è d'accordo, non ci sarebbe problema in quel caso lì, eventualmente prima di buttarlo ti faccio la telefonata e così almeno evito di uscire e vieni tu a prendertelo. Ok, c'è stato un break, avanti con il buongiorno Giulio, Claudio, Roberto, Massimiliano e Cristian, vai. Buongiorno a tutti, vi vedo Paglietti, ciao Tony Circolare, non c'è problema, Tonio Cavatappi. Ciao Tony, ben entrato, hai visto c'è una piccola ruota, tutte persone adulte, e ben vaccinati siamo tutti quanti, intendo vaccinati di frequenza, no? Inteso come anni di militanza in frequenza. Avanti Massimiliano. Sì, positivo, dai. Allora, secondino, scusa. Ciao Tonino. Ok, va bene. Niente, ho rimesso un po' in ordine la radio, non può altro. Ok, adesso sto andando con l'altra radio, l'altra antenna. Com'è? Massimiliano, com'è? È perfetta, te l'abbiamo detto da poc'anzi, è perfetta. La differenza che io noto, così facendo una piccola riflessione, tu hai detto che quella che hai messo oggi o ieri, non lo so, è un po' più bassa della Mantova. Sono convinto che se la metti allo stesso livello di altezza hai lo stesso segnale spiccicato, perché è quasi identico. Massimiliano, io penso questo, ho fatto questa riflessione. Vai ancora Massimiliano. Prego. Eia, sì, ciao Fabri. Ok, guarda che mi sfaccio lo smitter, abbasso un pochettino. Ok, da. Sì, oggi ti ho mandato anche delle foto, guarda, avanti Fabri. Ciao, no, stiamo provando una radio, è venuto qua, dimmi se lo ascolti bene, no, aspetta te lo passo. Ciao a tutti, ciao Massimiliano. Sì, ciao Riccardi. Ok, sì, io ti ascolto bene. Poi gli altri non lo so, siamo anche vicini, eh. Sì, siamo anche qui da Walter, noi prendiamo una a casa, abbiamo preso uno Zodiac B5024, e vediamo se funziona. E invece funziona, va bene. Segnale per me 59 radio 5, sì, la stessa radio, la stessa baracco, c'ho il Polma 7000, ma è uguale al Zodiac 5024 che avevo e ho dato a Marco. Sta riuscendo benissimo, ma stai provando il microfono suo? Sì, tutto il suo, adesso lo mettiamo via, stiamo facendo dei lavori, è venuto Riccardino col padre, detto, guarda, abbiamo fatto vedere un po' di radio, detto, aspetta, ne proviamo una a caso, qui la fortuna ha voluto che funziona pure. Va bene Fabri, ce l'hai al massimo il microfono, vuoi fare qualche altra prova? La radio è bella, eh? Non so nemmeno se si può regolare il Mickey Gain, no, era giusto per accendere. No, come microfono, se stai usando il Super Sidere, che se vuoi sollevarlo, non lo so. No, è il suo originale. E allora va bene alla grande. 5 di radio e segnale 9. Va bene, dai. Vi saluto che la scollego, dai, ciao a tutti. Ciao Fabri, saluto a tutti, vai Roberto. Ciao Fabri, ben sentito, anche a Riccardino, lo sapevo, sono passati da me, ti ho detto guarda Fabrizio e sei in buone mani, dai. Ciao anche a Torino che è entrato, ma c'era in parcheggio Gavino, vediamo se c'è ancora, Gavi ci sei? Ehi, ha sempre un ascolto Roberto, sempre un ascolto. Vabbè dai, Massimiliano. Che tanto di segnale, Gavi? Oh, capito, qua sono, dai. Va bene, va bene, ok, bella mossa. Questa è geniale, vai uguale all'altro, non ci vedi, sei 9 più 20, 9 più 20 sei col K, con la manta, vai, non noto differenza, ciao anche a Tonino, buongiorno. Non noto differenza, non ci vedi, io sono attento, ho gli occhiali e la testa sopra lo smitter, ma la differenza non è noto, io proprio impercepibile. Ma te l'avevo detto, non avevo dubbio, quell'antenna l'ho avuta come Giulio per un bel po' di tempo. Ed è veramente una signora antenna quella, magari quando fa un po' più tempo bello, ma ci vediamo se c'è qualche tubo robusto, te lo do e si solleva un altro elemento, e per me è superiore alla Mantova a questo punto, perché veramente hai un segnalone allucinante, sei 9 più 20 con una, 9 più 20 con l'altra, i picchi sono uguali, adesso col K è uguale, io ce l'ho memorizzato il tuo segnale, quindi per me è uguale. Avanti Tonino. Ok, ti ringrazio. Ok, io stavo cercando, lo so chi c'è in frequenza, che c'era un commutatore d'antenna della 27. Mi ha detto in ritardo perché io l'ho dato a Torre Squalo, ne avevo uno della Oxin, che è un po' meglio di quelli della ZG, un po' più robusto, insomma più serio, però l'ho già dato Tonino, ne ho altri, se no avrei accontentato volentieri, non lo so se ne ha qualcuno, Massimiliano, Giulio, Roberto, non lo so. Vediamo chi ce l'ha, ce l'ho, devo ordinarlo da fuori. No, io non ce l'ho, anzi diciamo che mi servirebbe anche a me. Mi sei considerato, Massimiliano, hai fatto un bel lavoro, quasi quasi mi stai invogliato per me un attimo. Anche io la seconda antenna, mi sei considerato che ho la Mantova tubo, quasi quasi la metto dove la prima e non se ne parla più. Tanto adesso andiamo incontro all'estate, il vento ce ne sarà pochissimo, per cui durante la notte non sentirò il fischiare dei radiali. Poi eventualmente nell'inverno, quando c'è il tempo e comincia a essere brutto, lo abbasso e tolgo i radiali, però lascio lo stilo centrale solamente, così almeno non fischiano i radiali. Bene, bene, vai, ma ci vediamo. Sì, va bene, scusate, ho abbassato il volume, stavo ascoltando un attimino a Daniela qua, là. Va bene, ottimo lavoro allora, va. Ti ripeto, in tempo che c'è la pioggia, mamma mia come sto qua. Allora comincia, poi lunedì, martedì e mercoledì ha messo acqua di nuovo, vabbè. Va bene così, dai, ok, riprendi Tonino. Ok, io stavo cercando, ripeto, chi ce l'ha, non so se è Roberto o qualche altro, questo è commutatore Roberto. Sono entrato io, no, non è Tonino, anzi lo stavo cercando io, buono, commutatore, c'era il vattino muscolo a 5 uscite, buono, e l'ha venduto tempo fa, infatti stavo prendendo, l'ho detto, ma l'avrei preso io. No, non ne ho, se no, già lo sai, non ci sono problemi, purtroppo sono quelle cose che chi ce l'ha se le tiene. Vabbè, che io stavo sposando, non ci dici niente, che... Ok, dai, me lo ordino tramite internet, non c'è problema. Ehi, ok, chi è arrivato qua? Io, buongiorno. Mia Eugenio, avanti, ciao Eugenio, vai Giulio per Eugenio e poi tutti gli altri. Ok, ciao Eugenio, ben entrato. Ascoltate, facciamo una cosa, allora, vi sei considerato, Robè, a te ti serve, a me mi serve, a Tonino le serve, le ordiniamo tre e non se ne parla più e paghiamo un unico trasporto. Cosa ne dite, ad esempio, Tonino, cosa dici? Per me problemi non ce ne sono, te ne posso dire anche 10, io problemi proprio non ne ho. Ah, appunto, visto e considerato che serve a tutti e tre, facciamo così un unico ordine e non se ne parla più, basta metterci d'accordo, ne parliamo e ciccia, lo facciamo, no? Avanti, dov'è? Se ne può parlare, io adesso ne ho uno a tre uscite, perché le altre, siccome c'ho un po' di linee, non so se l'altro ricordo, te l'ho fatto vedere, così via, ho l'idea di utilizzare quello del Magnum, delle 23.000 e commutare da lì e usare, solo che ancora non ho messo operativo il Magnum, è messo su un altro tipo di radio, devo vedere quello lì. Guardate, quando ci avete qualche idea, poi mi fate eventualmente sapere e valuto io. Per il momento sta andando uno, non so se della Prox o cosa sia, a tre uscite quello lì, che c'ho io, però è un giocattolino, più ho quello, due antenne le commuto con il coso, con l'H, cos'è, col TM1000 della ZG, ma ho giocato. Adesso sto pensando di spostare l'MT3000 e mettermelo vicino alle radio, anziché metterlo dall'altra parte, e usare quello come commutatore, che è molto migliore. Se volete il consiglio, lascia fare a Torino che deve commutare due baracchini. Ma noi che abbiamo gli HF, usate, cioè il Magnum, allora usa il Magnum come io uso la T230 come commutazione, perché è molto più professionale, vabbè, questi commutatori così, o prendi un commutatore serio, veramente, ma parlo serio, serio, va bene, non commutatori di quelli che vendono, anche di quelli tipo Proxy, tipo Oxin, tipo Pro, così prendi un commutatore glaciale della Daiwa che costa, insomma, un po' di più e hai una commutazione seria, perché per commutare due baracchini non c'è problema, ma quando inizi a commutare radio HF come abbiamo noi è un casino, deve avere un commutatore che chiuda, perché se non chiude è un casino. Questo sono pienamente d'accordo, infatti è quello, a quel punto mi attacco al Magnum, dai. Ok, e vediamo chi c'era poi, chi è rimasto, ma se vediamo ci c'è ancora. Beh, se avessi ascoltato un attimo, capito, per Tonino non c'è problema, perché con due baracchini li commuta, mette un commutatore quasiare normale, va bene, ma commutare le HF, Giulio, quando tu passi da un baracchino, ho capito, se vuoi fare magari all'HF al 440, deve chiudere, perché se non chiude, capita che ce l'hai acceso, c'è un rientro di RF che è per la radio, capito? Non fa, io non ne ho di quei commutatori, ce l'avevo, l'avevo tolto, ma giusto per commutare i baracchini, e l'ho dato a tutte le squadre. E per commutare le radio, le mie radio, uso la T230 della Kenwood, che fa la commutatore, rosmetro, wattimetro e accordatore d'antenna. Però stiamo parlando di uno strumento, insomma, abbastanza costoso e professionale. Capito? Quindi secondo me conviene, Tonino, se lo ordini uno, guarda se ci sono quelli della Daiwa coassiali a 3 o a 2, a quanto ti serve, ti prendi uno di quei commutatori lì, capito Tonino? Sì, infatti un Daiwa già va bene lo stesso. Sì, ma io infatti metto un'antenna solo, giustamente l'ingresso, e chiudo il contatto di un baracchino o metto il secondo, capito? Sì, ingresso di antenna e usi due radio, tre radio, dipende da quanto lo compri, capito? Però compralo buono della Daiwa, che abbia una chiusura buona, perché quelli che paghi due citi non servono a niente, ed è anche pericoloso, ti ripeto, il rientro di RF può capitare, una distrazione, una radio accesa, sembra che hai commutato, invece vedi lo smitter che si muove e ti va a famboscare, quelle sono tutte cose che non devono succedere, perché ti entra il segnale e ti può disintegrare la radio, capito? Quindi compralo buono, quindi uno della Daiwa coassiale e si è a posto, in modo che chiuda bene e hai tranquillamente la commutazione su due radio con un'unica antenna. Vediamo un po', Massimiliano, ci sei ancora? No, Massimiliano si è spostato, Cristian mi pare aveva chiuso, era già arrivato a destinazione, che okay. Sì, allora siamo solo noi, avanti giù. No, c'è anche Eugenio, dai, avanti Eugenio. Fate, che sono qua, poi sono distrutto, sono uscito a lavorare poco fa, sono distrutto, fate, andate tranquilli. Vento ce n'era, comanda. No, vento no, adesso si è messo il vento. Pensavo che era per il vento. Va bene, comandante, noi siamo qua, quando vuole può intervenire, vai Marco giù. Ok, sì, in realtà io ho qua, uno ce l'ho, però è una bucalia, nello senso della parola, che nemmeno Marcello lo vorrebbe, è uno di quelli del ZG a quattro uscite se ricordo bene, ma poi l'ho provato, ma non chiude nulla, sai cosa vuol dire nulla, quello della ZG a quattro uscite, l'ho messo da parte, chissà se lo trovo anche, ma ce l'ho prima bene. E lei è nuovo, nuovo di zecca. Solo che non è consigliabile nemmeno per i baracchini, non per le radio professionali, ma nemmeno per i baracchini è consigliabile, perché è una vera schifezza, veramente. Sì, ma è così. Comunque, Robè, Tonino, se volete facciamo nudere e ce lo compriamo. E non se ne parla più. Così almeno lo rimediamo anche a questo particolare. A proposito, Robè, che poi tra l'altro, sai cosa volevo fare io? Adesso mi ha invogliato un po' Massimiliano. Volevo mettere anche la mantova turbo, no? Perché la canna da pesca è più la mantova turbo. E poi tra l'altro, tutto sommato, le posso anche fare a meno, Robè, sai perché? Perché ce l'hai anche tu, ad esempio il Transmatch 1000 che ha due entrate di antenna, con l'interruttore antenna 1 e antenna 2, per cui potrei anche utilizzare quello, però preferisco il commutatore, che è un'altra cosa. Avanti, Robè. Scusate un attimino il telefono, dai, ho capito il discorso. Sì, anche io infatti adesso sto commutando l'altra antenna, siccome ne ho più di una di antenna, comunque no, antenna 1 e antenna 2. Scusatemi un attimo il telefono. Va bene, facciamo girare, avanti Tony. Comunque l'ho trovato qua, dai. Deviatori commerciali, penso che mi è scappato adesso. Ecco qua. Addirittura c'è per Daiba da 1 a 500 MHz. Daiba, sì. Che funziona fino a 500 MHz, sì, va bene, ce n'è per in abbondanza, va benissimo. Perdita di inserzione, te lo dice quello che stai guardando, Tony, quanto perde? 0,5, 0,1, quanto perde perdita di inserzione tenendolo naturalmente attaccato? Non lo so, devo controllare perché sto aprendo la pagina, capito? Ho un po' letto qua, perché il segnale ne ho poco, io di telefono qua. Ok, vabbè, dai, che poi non è così importante, chi se ne frega se dovesse perdere anche un dB, non ce ne frega proprio un bel niente. Avanti qua. Ho ripreso, scusate se mi avete chiamato, ma non potevo riprendere. E allora riprendi adesso, dai, fai il passaggio Massimiliano, sì che ti abbiamo chiamato più volte, avanti. Purtroppo c'era mia moglie qua, mi stava dicendo cosa e ho dovuto abbassare un po' la radio, non ho seguito neanche il discorso che avevate. Va bene, ok, sono contento. Quindi anche tu stai decidendo, ho sentito stai decidendo di mettere due antenne. Visto che ce l'ho nuova l'antenna, Massimiliano, che non ho intenzione di disfarmene. E allora tanto male la posso anche rimettere, visto che adesso andiamo incontro all'estate, e cosa posso fare? La rimetto, intanto il vento la notte non soffierà più forte come quando siamo d'inverno. Poi quando sarà la stagione invernale la passo, tanto il tubo è telescopico, quello che ho io, non c'è problema, me lo porto a livello di uomo e stacco il radiale e poi lascio lo stilo centrale piazzato, perché ce l'avevo sempre sdraiato nel poggiolo della mansarda lo stilo centrale, ma alcuni giorni fa, una decina di giorni fa l'ho smontato e l'ho messo insieme in astratti per non perdere i pezzi, insomma poche parole, quasi quasi la rimonto e poi utilizzo il commutatore antenna e ciccia e non se ne parla più. Mi sono spiegato Massimiliano? Sì, ma secondo me non c'è neanche bisogno di usare il commutatore di antenna. Si può mettere tranquillamente due radio e fai una da una parte e una dall'altra, capito? Beh, visto che c'è il palo, c'è tutto. Per lasciarla buttata così in terra, piazzala, tanto alla fine si rovina. E la monti, dai, e va bene così. Io questa qui, diciamo, mi è andata bene, dalla prima, sono soddisfatto del mio lavoro, dai. Giulio. Sì, hai fatto un bel lavoro, poi è un'ottima antenna, Massimiliano. È un'antenna che non ha niente da invidiare alla mantova, se non nella sezione dei materiali, ma per il resto, guarda, che poi, tra l'altro, ripeto, nonostante la sezione dei materiali sia molto inferiore alla mantova, però l'ho tenuta 30 anni e ti posso dire che fino all'ultimo momento, fino all'ultimo respiro dell'antenna stessa non l'ho sostituita, proprio quando c'erano 3 o 4 radiali, perché gli altri erano caduti e ce n'erano 16, quello che avevo io era 16 radiali, tutti da 70 centimetri, per cui va bene così, dai, avanti Claudio. Aspetta, ha chiamato Tonino, vai Tonino. Giulio, grazie Claudio. Allora, il commutatore costa 19 euro più 9,99 euro di spedizione, totale 28,99 euro, ti va bene? No, oh, Tony, quello non serve, se 19 euro non serve, ci vuole un commutatore buono, almeno 50-60 euro, 70 euro. Claudio, cosa dici tu? I commutatori buoni quanto costano? Ragazzi, io lo sto dicendo, cioè quello che ho dato io, l'avevo pagato 18 euro più le spese di spedizione, e l'ho dato 15 euro senza far pagare naturalmente né le spese di spedizione né quanto l'ho pagato, non era nuovo nuovo ed è un della Oxy meglio di quella ZG. Non lo usare, Giulio, non lo usare, perché al povero Giampaolo Silvestro gli ha mandato in corto una radio e fortunatamente ce ne siamo accorti subito, perché altrimenti bruciava tutto. Attenzione con quelli della ZG, buttateli via, perché non sono commutatori da usare nel modo più assoluto. Sono buoni quelli della Oxin e quelli della Proxer, ok, senza quelli della Raiva, naturalmente sono professionali. Però quello della Oxin, se è quello, o quello della Proxer a 19 euro, Giulio, non è un commutatore, va bene anche quello. Se poi vuoi andare più sul professionale, è chiaro che devi spendere non 60-70 euro, perché sei già a livello amatoriale come commutatore, ma puoi già andare a spendere sui 25-30 euro, è un buon commutatore. Allora, questo qua è Avair, c'è scritto CX5 OPEC, commutatore deviatore Swatch, antenne 3 vie da 1 a 500 MHz, SQ239, gas 1 a 500 MHz, 1000 watt. Se mi permetto, Giulio, quanto ti serve? A 2 o 3 uscite? A 3 uscite almeno, dai, perché posso fare così, mettere 2 antenne nella 27 e poi eventualmente, cosa che adesso non so nemmeno dove è finito l'apparecchietto, già mi hai capito, l'altra frequenza la potrei mettere lo stesso, no? Visto e considerato che da 10 anni ho l'antenna, però messo da parte che non so nemmeno dove l'ho messo, e già mi hai capito, l'altra frequenza già mi hai capito cosa intendo. Ma io, se tu piazzi 2 antenne, io avrei fatto un commutatore a 2, di cui 2 radio e una diretta con un'antenna. E cioè due uscite, voglio dire, o Massimiliano, con 2 uscite, io lo voglio con 2 uscite, se è tre è meglio, per un eventuale magari un altro collegamento, un'altra radio, ad esempio un ricevitore, tanto per fare un esempio. Sì, però quando tu commuti o con una o con l'altra, non è che ti fa ascoltare anche quella là, capito? Perché tu, girando la posizione dell'antenna, l'altra antenna la stai escludendo, quindi il commutatore o vai con una o vai con l'altra, non è che ricevi anche con quella, per intenderci. Comunque io ti ho mandato un commutatore a 2 uscite della Daiwa, tiene 1500 watt e costa 32 euro e qualche spicciolo, 50 mi pare. Ok, e mi va bene, così mi va bene, Massimiliano. No, ma quello lo so che devo utilizzare una radio per volta, questo è ovvio, commuto e devo ascoltare uno per volta, ma siccome ho anche il ricevitore, e io per non stare lì a attaccare antenna al ricevitore, ci mettevo anche quello, mettevo 2 antenne della 27 più un'antenna del ricevitore ed ecco che non commutavo, cioè commutavo e basta, volevo ascoltare il ricevitore, commutavo ad esempio al terzo al numero 3 e ascoltavo il ricevitore, è quello che intendevo, però anche a 2 mi va bene ugualmente, non è la fine del mondo, al limite stacco un'antenna e poi attacco l'antenna del ricevitore, è uguale, non è questo gran lavoro che ci vuole, va benissimo. Stavo dicendo, Tony, mandami la sigla di quello che hai detto tu, per cortesia. La sigla, dimmi, di quello che stavi dicendo. Guarda, sono già uscito dal programma. Io ho cercato il computatore da 0 a 25 MHz, quindi, e te lo do anche a te. E niente, lo devi, lei mi dà non disponibile. Avanti, classe. Allora, non è importante, come dice appunto Massimiliano, non è importante la potenza di quanto può tenere un commutatore d'antenna, stiamo parlando di kilowatt, noi non ce ne frega niente dei kilowatt in 11 metri, ok? Quindi è molto importante la commutazione di chiusura, Ok, perché se voi andate a prendere i commutatori che costano 2 lire come quelli del ZG, non hanno niente dentro, non hanno niente. Ci sono dei semplici connettori PL dove sono tutti attaccati in serie e un unico ingresso, basta. È un commutatore di quelli che gira a lamelle, tic tic tic. I commutatori professionali hanno un altro tipo di sistema, sono a commutazione a proprio potenziometro, tac, tac, tac, a pallina, quindi chiude meglio, capito? Allora, quello che sta dicendo Massimiliano, Giulio, se tu monti due antenne, come ha fatto Massimiliano, se tu monti due antenne, cosa fai? Una diretta, decidi tu quale, te la metti sul K e la lasci sul K, voglio modulare col K, non me ne frega niente, accendo, tutto il resto è spento. Poi se c'hai due deviazioni, con l'altra antenna deciderai tu, devo usare un baracchino, quale? Il DAC, mi metto il DAC davanti e uso sempre quello, l'altra commutazione la usi per il ricevitore decametrico e quindi sei a posto, oppure la puoi usare per il PMR, sei a posto, la puoi usare per qualsiasi altra cosa, un'antenna diretta, capo diretto attaccato direttamente al K, l'altra che puoi usarla col commutatore d'antenna, commuti due radio, è più che sufficiente, non è che puoi commutare dei radio. Sì, lo so qua, ma quello sì, ma siccome io non volevo staccare nessuna antenna, avendola a tre uscite, posso mettere due antenne perché è l'altra per il ricevitore, dunque non avrei dovuto mai staccare l'antenna in quel caso. Se invece a due uscite, ad esempio come quello, come il Daiwa 201 che mi ha mandato anche la fotografia Massimiliano, va benissimo lo stesso, è un bel commutatore, sicuramente anche buono, però se devo mettere il ricevitore o viceversa, devo sempre attaccare un'antenna e poi mettere l'altra, perché io in realtà voglio avere tre uscite per tre antenne, due per la 27 e una l'antenna del ricevitore, ecco come volevo fare, senza mai staccarle, solo commutare e basta, comunque mi va bene anche a due uscite, e poi no, per staccare un'antenna e mettere l'altra non è un problema, ma era per non fare diciamo così questa operazione di cambio, dai, tra una un'antenna e l'altra non è un problema, va bene lo stesso a voglia. Comunque bello quello, Massimiliano, quello è bello, hai detto che costa 32 euro, hai detto? Sì, 32 euro, io ce l'ho così, uguale, preciso identico, io l'ho ordinato da eBay, capito? E poi ne ho anche un altro nuovo chiuso in scatola, però quello mi serve, che devo fare un altro passaggio, va? Allora, Giulio, forse non siamo capiti, pure passatonino, non ne hai bisogno, non devi staccare niente, assolutamente. La Mantova Turbo, il cavo della Mantova Turbo l'attacchi al 440 e quella è una radio. L'altra antenna, la canna da pesca così chiamata, ok, la Game Master, no, questa canna da pesca non mi piace, non siamo pescatori, la Game Master, il cavo della Game Master lo fai entrare nel commutatore in ingresso, hai due uscite, hai altre due radio da usare. Ok, hai altre due radio da usare, che cosa devi staccare? Se è a due uscite, o qua, e ne ha due da una parte e uno dall'altra, no? Giusto? Le due praticamente sono esattamente dove si dovrebbe attaccare l'antenna, la parte dove ce n'è una è quella che in realtà si dovrebbe attaccare al baracchino, va bene? Mentre invece si può contrario mettere l'antenna all'ingresso dove c'è solamente un connettore e dall'altra parte che ci sono due ingressi mettere un'antenna e un'altra antenna ancora, e dunque mi mancherebbe la terza per voler anche mettere quella del ricevitore, io penso che sia così, no? Ho sbagliato, Giulio, sbagliatissimo. L'antenna va collegata dove c'è un connettore sotto l'input, è sotto, poi tu la deviazione alle radio la fai con le due uscite, una da una parte e una radio, giri alla seconda uscita e vai con l'altra radio, quindi non è che tu fai un'antenna l'attacchi a un ingresso, l'altra antenna all'altro ingresso e c'hai solo un'uscita. Cioè l'antenna va attaccata sotto dove c'è un ingresso solo e poi con gli altri due vai, una da una radio e una dall'altra radio, capito? Oh Giulio, cioè, non mi avevi capito allora. Il connettore che ti ha mandato Massimiliano ha un connettore, uno, lì devi attaccare l'antenna. Se prendi due spezzoni, te li fai a misura ed esci antenna 1, antenna 2. Ma non significa niente antenna 1, antenna 2. Quella è la posizione. Ok, perché i commutatori, attenzione, si possono anche usare al contrario. Va bene, se tu hai un'unica radio Massimiliano, cosa fai come sta dicendo Giulio? Lo giri al contrario, metti la mantova 1 sul connettore numero 1, la direttiva sul connettore numero 2 e vai a collegare e vai a collegarti alla radio con l'uscita che c'ha. Si possono invertire i commutatori, puoi usarlo un ingresso, due uscite, due antenne, una radio, non ha nessuna importanza, quindi tu usalo da commutatore. L'antenna sul connettore d'ingresso, quello singolo, le due uscite, antenna 1, antenna 2, fai baracchino 1 o baracchino 2, con due spezzoni, finito. Questa. Giustissimo, lo stavo per dire io. L'edizio ha capito il volo, mi ha detto zitto lì, ha detto ci ha fatto collegare due baracchini e un'antenna, perfetto. Sì, sì, ho capito, quello sì, ma è sempre un'antenna che funziona con i due baracchini, ma io non so, io voglio usare tutte e due antenne, qua, tutti e due le voglio usare, indipendentemente l'una dall'altra. E allora ci vuole il commutatore. Ma come fai a usare due antenne con... non lo puoi fare, non lo puoi fare, perché allora dovresti usare due antenne e un unico baracchino, cioè non si può fare, non si può fare. Ho tre antenne, per dire, se ce l'hai a tre antenne diverse, ma l'uscita è sempre una, quindi solo un baracchino puoi usare. Se invece lo usi così, lasci la mantova sul 440, come a Massimiliano, come avevo io un periodo, ok? Io ad esempio ho la T230, va bene, ho tre deviazioni e con la mantova uso il 430, il 440 e il 140, va bene, con un'unica antenna però con la mantova e basta. Solo così puoi fare Giulio, se no come fai? Sempre un baracchino devi usare, perché anche se tu lo inverti, lo metti a tre e metti tre antenne, e un baracchino solo c'ha di uscita. Invece così cosa fai? Metti un'antenna, una la lasci ferma sul K normale, l'altra, la game master o viceversa, la sfrutti con tre radio diverse o due radio diverse, solo così puoi fare. Sì, ho capito cosa state dicendo voi, quello l'ho capito benissimo, ma io voglio fare un altro genere di lavoro. Poc'anzi ho parlato del transmitter 1000, io mando le due antenne al transmitter 1000, che è praticamente rosmetro e wattimetro e anche accordatore antenna. Mi state seguendo? Da lì poi io collego lo spezzone al commutatore di antenna, va bene? E poi posso avere le uscite che voglio, sempre con due antenne. Perché? Perché nel Transmetti 1000 c'è la possibilità di mettere due antenne, antenna 1 e antenna 2, che ce l'ha anche Roberto, ce l'ha tra l'altro, quel, forse lui mi capisce al volo. Vai Roberto. Oh, Rick ce l'ha trovato per me. Allora ce l'ho uguale io, infatti adesso ho montato l'antenna. Sì, diciamo state dicendo due cose diverse, Claudio e Coso e Giulio. Il TM1000 ce l'ho anche io, c'ha due commutazioni di antenna, antenna 1 e antenna 2. Adesso io ho messo tutte e due le antenne che poi vanno a finire in un altro commutatore di antenna a tre posizioni che alimenta tre apparati diversi. E di lì c'ho il 140, il 440 e tutto quello che mi interessa avere. E poi da lì parte un'altra linea che alimenta l'MT3000. Si può fare anche così, sì. Oppure c'è un'altra possibilità ancora con il relè coassiale, però di lì stiamo parlando di cose un po' più complicate. Vabbè, sono passaggi del cacchio, perdonatemi, cioè non è che io non capisco, io queste cose le ho fatte prima di voi, se mi permettete, no? Perché io ho l'equassiale, addirittura l'alimentazione, quindi cosa cambia? Non cambia assolutamente niente, l'equassiale RLE è un'altra cosa, perché io ho la commutazione elettronica sul petto e conto con il control box qua sotto, ma è un'altra cosa, capito? Con un unico cavo di discesa, è un'altra cosa, ed è a 5, quindi ci sono 5 antenne che io posso commutare con un unico apparato però. Se io voglio commutare con altri apparati, devo mettere un altro commutatore giù e fare le deviazioni agli apparati. Quella è un'altra cosa, Robè. Cazzo, roba cassa di dispersione che c'hai. Tutti entra lì, esce lì, entra lì, esce lì. Ma assolutamente. A Giulio, allora, le conviene, te ne compri uno a tre. Te ne compri uno a tre. E fai come ti ho detto io. Anche entrando nel trasmatch lì che c'hai, sempre due antenne devi usare. O usi una o usi l'altra. Non è che le puoi usare contemporaneamente. Quello è normale, per forza, ci mancherebbe. No, ma giocattoli, TM1000 ce l'ho anche io, poi c'è un commutatore, sono giocattoli, se li vedi appesi, come ha detto Claudio, un commutatore deve chiudere completamente il circuito. C'è una cagata, ci vogliono quelli ceramici o materiali di altissima qualità, quelli dell'MT3000 sono ceramici, commutatori.